Finalità dello Stato islamocratico. Lo Stato islamocratico è lo strumento politico di una comunità di credenti organizzata su un territorio secondo i modelli indicati nel sublime Corano e nella nobile Sunna, posto in essere al fine di realizzare storicamente uno spazio dove siano garantite le condizioni ottimali di vita risultanti dalla pratica dell'Islam. Nello Stato islamocratico i valori dell'Islam sono tutelati dalla legge, ma l'ordinamento islamico della vita non restringe i diritti e i privilegi umani entro i limiti geografici dell'efficacia delle sue leggi. Infatti Allah, il Dio, ha stabilito per tutti gli uomini alcuni diritti fondamentali che vanno rispettati in ogni circostanza, sia che la persona risieda sul territorio dello Stato islamocratico o fuori di esso, sia che si trovi in guerra o in pace con esso. La vita umana è sacra e il sangue non può essere versato se non nei casi previsti dal codice penale islamico, il quale ha per suo autore Allah, il Dio, il padrone della vita e della morte. Non è islamicamente lecito opprimere donne, bambini, vecchi, malati o feriti. L'onore e la castità della donna sono tutelati dalla legge. È un preciso dovere dare da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, curare gli ammalati, siano essi musulmani o non musulmani, siano essi amici, siano essi nemici. Questi e altri comportamenti sono ordinati da Allah, il Dio, perché l'avere il cibo, vestito, cure mediche sono diritti fondamentali di ogni uomo in virtù della sua condizione umana. Nello Stato islamocratico la cittadinanza è garantita a ogni musulmano, indipendentemente dal luogo di nascita, dal colore della pelle, dalla sua appartenenza etnica. La condizione per essere cittadino dello Stato islamocratico è l'appartenenza all'Islam, poiché esso è l'organizzazione politica statuale di musulmani su un territorio. I non musulmani, quindi, non hanno diritti politici, ma lo Stato islamocratico riconosce loro una serie di diritti il cui rispetto è garantito dalla Costituzione. Ai non musulmani, a fronte dell'adempimento da parte loro delle norme che regolano la loro presenza entro i confini dello Stato, l'ordinamento islamico garantisce la protezione per quanto riguarda la loro vita, la loro proprietà e il loro onore. Non c'è disparità fra un musulmano e un non musulmano davanti alla legge civile e penale. Lo Stato non interferisce nella legge personale che regola i rapporti tra i non musulmani che vivono sul suo territorio. Questi e altri diritti sono garantiti ai non musulmani.